Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani per l'ultima puntata della settimana. Oggi non abbiamo il consueto appuntamento con i colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, perché ieri è arrivata una notizia che ci è sembrato utile oggi far portare subito a Salva Danaio, appunto, e portarla alla vostra attenzione. E qual è questa notizia? Vi ricordate gli incentivi ai consumi che sono stati varati la scorsa primavera? 300 milioni di euro destinati a rilanciare gli acquisti tra le famiglie, soprattutto in certi settori. C'erano gli incentivi per le due ruote, quelli per le cucine componibili, per alcuni elettrodomestici, per la banda larga, per gli immobili ad alta efficienza energetica. Beh, erano divisi in tranche, alcuni sono stati bruciati nel giro di pochi giorni, altri invece non sono stati utilizzati fino in fondo, e quindi ci sono ancora 110 milioni di euro disponibili che ieri il Ministero dello Sviluppo Economico, visto che finalmente è occupato da un ministro, ha firmato il decreto per la rimodulazione di queste risorse. Anche perché, che lo ha ammesso lo stesso ministero, le procedure per l'erogazione non erano state proprio fluide, con un certo disappunto per esempio per tutti quei commercianti coinvolti appunto in questa partita di risorse. E allora quindi si riaprono delle opportunità per i consumatori. Oggi vi rifacciamo un bel riepilogo di questa situazione insieme intanto alla nostra Francesca Milano, che già a fine agosto aveva fatto il punto della situazione con noi. Eravamo completamente all'oscuro del fatto che queste risorse poi si potessero rimettere in pista in questa maniera. Vi spiegheremo poi come. Francesca, sì, ciao. Esattamente, buongiorno. Poi salutiamo Luca De Stefani, il nostro esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Luca, buongiorno. Buongiorno. Io faccio sempre la professionale e a Luca De Stefani do sempre del lei, ma dopo 3 anni di collaborazione a Salva Danaio oggi sdogano il tu, Luca, e andiamo avanti anche in questa maniera, e così almeno risolviamo il problema, perché una volta gli do del tu, una volta del lei, mi viene anche da ridere. Quindi poi Claudio De Viti, direttore sezione moto dell'ANCMA, buongiorno, l'associazione cicli motocicli di buongiorno. Confindustria, buongiorno anche a lei, anche con lui chissà quante trasmissioni, ce lo ricordiamo, perché il tema delle due ruote è stato quello più sicuramente coinvolgente per i consumatori, giusto? Se lo ricorda? De Viti? Sì. Sì, si ricorda, e quanti problemi però anche per i commercianti e per tutti i rivenditori che ancora devono rientrare degli incentivi riconosciuti ai consumatori. Faremo il punto anche su questo. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, 349 238 6666 il numero invece per gli sms. Allora, prima di partire con questo argomento, il tema di borsa naturalmente lo monitoriamo molto attentamente in questi giorni, perché siamo in procinto di assistere anche alla riunione del G20 della Corea del Sud, che stabilirà un po' di regole per quello che è possibile fare sull'andamento del mercato valutario. C'è questa guerra delle valute, qualcuno fa fatica a pronunciare questa parola, ma di fatto esiste, basta osservare cosa sta facendo l'euro sul dollaro, il principale cross è sulle montagne russe da diversi giorni a questa parte. Adesso il rapporto di cambio è 1,3913, abbiamo le borse un po' deboli, oggi Parigi scende dello 0,13%, Francoforte meno 0,14, Londra meno 0,51 e Milano meno 0,24 sul FTSE MIB. Il quadro tra l'altro di borsa oggi è condizionato anche, oltre che dalle trimestrali che stanno uscendo, dal nuovo dato tedesco che è uscito questa mattina, l'IFO, l'indice di fiducia delle imprese, che è stato superiore alle attese in settembre, ma non ha dato grande slancio, non ha dato grandissimo slancio rispetto a come può fare di solito proprio all'euro. Ieri l'euro è stato molto più sostenuto da un altro dato tedesco, e cioè la revisione al rialzo del prodotto interno lordo per la fine dell'anno. Milano oggi punta su STM più 1,49 dopo i dati di Ericsson, Mediaset più 1,45, Finmeccanica ha delle nuove commesse, quindi nuovo business per il gruppo, e titolo in rialzo dell'1,38, Campari più 0,9, Saipem più 0,9, Autogrill più 0,9%, in discesa invece CIR perde un punto percentuale, perde un punto anche Unicredit, pare che si riapra la partita dei soci libici nel capitale di Piazza Cordusio. Tra l'altro situazione molto strana questa, molto interessante anche da monitorare, perché insomma la presenza dei libici ha portato alle dimissioni di Alessandro Alessandro Profumo. Adesso questi avrebbero detto che non vogliono fare grande chiarezza sulla loro presenza di questo capitale e non vogliono spiegare quali sono gli obiettivi futuri, e quindi il presidente Rampel si è un po' arrabbiato, e forse questo potrebbe portare addirittura all'uscita di scena dei libici dal capitale di Piazza Cordusio. Questo almeno sommariamente quanto ricostruiscono stamattina alcuni giornali, e il titolo scende. Telecom -0,9, Popolare di Milano -0,8. Oggi rapidamente abbiamo un debutto in borsa, quello della Vita, società editoriale. Questo è il miglior titolo adesso a Piazza Affari, sta guadagnando quasi il 15%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sugli incentivi per la ripresa dei consumi. Novità in arrivo sul fronte degli incentivi statali stanziati la scorsa primavera, i 300 milioni che, con il decreto incentivi 2010, il governo ha destinato ad agevolazioni per l'acquisto di cucine, apparecchiature ad efficienza energetica industriale, elettrodomestici, gru per l'edilizia, macchine agricole, motocicli, nautica, immobili ad alta efficienza energetica, rimorchi e banda larga. A fine agosto erano stati utilizzati 175,4 milioni, circa il 60% delle risorse, con un quadro sbilanciato tra le diverse categorie. In alcuni casi una vera e propria corsa allo sconto con l'esaurimento del contributo previsto, in altri uno sfruttamento molto parziale. Con il limite ultimo per fare la richiesta fissato al 31 dicembre, qualcuno iniziava già a temere che una buona fetta rimanesse inutilizzata. È invece arrivata ieri la decisione del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che con un decreto ha previsto che la cifra, che nel frattempo si è ridotta a 110 milioni, venga rimodulata rinnovando la disponibilità per tutti i settori, compresi quelli che risultavano esauriti, mantenendo invariati i requisiti e le modalità di erogazione. Si passa quindi ad un fondo unico, di cui sarà possibile usufruire dal 3 novembre prossimo. Fino ad allora si continuerà a prenotare separatamente solo nelle 7 categorie ancora incentivate. Contestualmente a queste novità, comunica il Ministero, si darà il via all'effettivo saldo dei contributi, ponendo fine all'attesa dei rivenditori e, nel caso degli immobili ad efficienza energetica, degli stessi acquirenti. Speriamo. Io voglio anche raccontarvi un piccolo aneddoto legato a questa trasmissione che io avrei voluto organizzare a metà settimana, perché qualche giorno fa ci aveva scritto un gruppo di cittadini che, vi leggo testualmente l'incipit di questa mail, stanno lottando per usufruire degli incentivi relativamente agli immobili ad alta efficienza energetica. Volevo quindi fare un punto della situazione solo su questa partita di incentivi. Abbiamo con la Francesca a Milano contattato, anzi lo ha fatto lei per noi per la verità, il Ministero dello Sviluppo Economico, ci hanno detto bloccate la puntata perché stanno arrivando delle novità, Francesca, quindi raccontiamo questi curiosi anche retroscene. Sono arrivate in diretta mentre preparavamo la puntata le novità riguardanti appunto la rimodulazione dei fondi ancora disponibili. Sono 110 milioni di euro che il Ministero rimette in palio, non divide per settore, ma quindi fa un fondo unico da cui si può attingere per un acquisto che riguarda queste 10 categorie incentivate. Quindi ritornano disponibili anche fondi per i motocicli, per la nautica, per la banda larga e per gli immobili ad alta efficienza energetica, immobili, ma anche le macchine agricole che erano esauriti e insomma gli addetti ai lavori ne richiedevano altri. Ecco, c'è modo adesso. Però c'era già chi comunque questa richiesta l'aveva fatta a tempo debito, quindi quando gli incentivi sono partiti la scorsa primavera, e però insomma qualcuno non è ben convinto, non è molto convinto del fatto che in realtà, pur avendo fatto la prenotazione, questi soldi entreranno. Allora io saluto la signora Marta, che è una appunto delle componenti di questo, non lo so come definirlo. Marta, buongiorno. Comitato buongiorno. Incentivi 2010, vi fate chiamare così, avete istituito anche proprio un indirizzo di posta elettronica. In quanti siete e che cosa, come avete messo in piedi questo gruppo? Ci siamo trovati nel blog Crisi Finanziaria, nella sezione dedicata alla procedura di richiesta degli sconti incentivi, e poi in un gruppetto di circa 15 persone, poi ce ne sono aggiunte altre, abbiamo deciso di sensibilizzare su questo tema i giornali e comunque chiunque potesse darci visibilità, dato che non riuscivamo ad ottenere le informazioni relativamente a quando sarebbero stati erogati gli incentivi. E infatti speriamo che questo sblocco avvenga. Il ministro l'ha promesso, Marta, noi le abbiamo dato voce, adesso lo daremo anche ad altri ascoltatori che, sentendo l'organizzazione della puntata, vogliono intervenire sullo stesso argomento. Francesca, su questa partita poi magari chiedo anche a Luca De Stefani, che ha studiato bene tutta la documentazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Diciamo che in teoria il tema è lo sblocco, quindi chi vuole aderire, chi vuole partecipare appunto a questi incentivi adesso può rifarlo di nuovo dal 3 novembre. Ma sullo sblocco delle risorse per chi li ha già prenotati? Ecco, questo è un po' un problema, è stato il problema fino ad oggi, perché i rivenditori hanno al momento anticipato gli sconti che il Ministero ha promesso ai consumatori e non hanno ancora visto i soldi tornare indietro, perché il Ministero non li ha ancora distribuiti. Come dicevamo nella puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa, alcuni rivenditori insomma hanno anche deciso di non aderire più all'iniziativa perché per loro è chiaramente un costo, ma adesso il Ministero ha confermato di aver sbloccato le risorse che dovrebbero quindi arrivare, e i rimborsi quindi arriveranno a tutti i rivenditori che li hanno anticipati, e speriamo che sia vero. Ecco. Luca De Stefani, per gli immobili ad alta efficienza energetica in realtà non c'è stata la necessità di fare una prenotazione attraverso rivenditori o commercianti, qui la procedura era un po' diversa. Certo, la prenotazione deve essere fatta almeno 20 giorni prima dell'atto notarile dal venditore dell'immobile stesso che prenotava il contributo, dopodiché, dopo aver fatto l'atto notarile, invece era l'acquirente stesso che doveva richiedere rimborso alle Poste Italiane dando una copia autentica dell'atto, l'IBAN del conto corrente e i propri dati anagrafici. E quindi il contributo andava direttamente all'acquirente, non al venditore. Esatto, quindi insomma di fatto adesso, se il Ministero promette lo sblocco, dovrebbero entro qualche settimana, al limite qualche altro mese, rientrare di questo denaro già anticipato, giusto? Eh sì, certamente. Possiamo ricordare a quanto ammontavano questi soldi? 60 milioni di euro totali come fondo stanziato, e avevamo un incentivo di 83 euro per metro quadro di superficie utile per gli immobili di nuova costruzione con classe energetica B. Se invece la classe era A, avevamo un incentivo di 116 euro per metro quadro di superficie utile, con dei massimali comunque che erano nel primo caso di 5.000 euro e nel secondo caso di 7.000 euro. Allora, il tema è che a questo punto, visto che siamo state sempre così, spero Francesca, mi do questo merito da sola, brave a monitorare la situazione, continueremo a farlo anche per vedere poi se queste persone che hanno già anticipato questo denaro rientreranno appunto in questo, di questo investimento. Marta, è ancora con noi? Sì, sono qui. Posso salutarla? Ha qualcos'altro, certo, da dirci? Non lo so, vogliamo, visto che io sono sicura, siccome il Ministero ci ascolta stamattina, possiamo sollecitarlo? Come, scusi, non ho sono, capito. Ho la certezza che il Ministero dello Sviluppo Economico ci ascolti questa mattina, visto che peraltro avevamo chiesto loro un ospite e non ce l'hanno dato. Buon lavoro, perché ce n'è da fare. Benissimo, Marta, allora ci faccia sapere se avete delle novità e riorganizzeremo sicuramente una puntata anche per ridarvi voce. Buona giornata. Vi ringrazio. Allora, c'è anche Anna d'Alessandria sullo stesso argomento, però prima di tutto incombe il meteo e la nostra pausa. 800 24 00 24, numero verde per voi. Adesso abbiamo anche ovviamente le due ruote da affrontare, tutta l'altra gamma di incentivi a tra poco. Allora, eccoci ritrovati a Salvadanaio questa mattina alla luce di una novità che è arrivata ieri, una notizia che è arrivata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo organizzato questa puntata di Salvadanaio per fare il punto su tutti quegli incentivi, ve lo ricordate, della scorsa primavera, destinati a rilanciare i consumi in Italia. Incentivi che ammontavano a 300 milioni di euro destinati a vari settori, ne sono stati utilizzati praticamente 2/3, perché ne sono ancora in ballo 110 milioni, e adesso il Ministero cosa ha deciso di fare? Non ripartisce più per settori, ma li ha messi tutti in un unico fondo, Francesca, Milano, e quindi varrà un po' il gioco del chi tardi arriva, esatto, ma le alloggia, e il primo che arriva ne beneficerà. Sì, diciamo che il problema è stato che la ripartizione iniziale non ha funzionato così bene, perché ci sono alcuni settori come i motocicli i cui incentivi sono finiti in pochissime settimane, e ci sono altri settori che sono stati un po' un flop, tipo diciamo l'efficienza energetica industriale e i dispositivi. Esatto. gli inverter non hanno avuto un grande successo. No, i dispositivi, diciamo, incentivati non sono stati acquistati così come sperava il Ministero. Dei 10 milioni messi a disposizione inizialmente, soltanto lo 0,2% è stato usato. E infatti, allora, dicevamo prima, le procedure per il rimborso di queste risorse ai negozianti e ai commercianti coinvolti appunto in questa operazione, io ho detto, non sono state fluide, sono state proprio bloccate, perché nessun commerciante ancora ha riavuto indietro, esatto, il denaro che in qualche maniera ha anticipato, e sono stati soprattutto arrabbiati i rivenditori di cicli e motocicli. Claudio De Viti, direttore sezione moto dell'ANCM, ancora buongiorno. E allora, Ministero promette che queste risorse ai commercianti rientreranno, ci credete? Insomma, adesso siete contenti anche che questa partita sia stata riaperta? Direi di sì, Intanto la prima notizia è finalmente ci sono i soldi in cassa, perché prima non c'erano. E quindi riteniamo che nei tempi tecnici previsti, che ci hanno detto intorno ai 15-20 giorni, possano iniziare questi rimborsi, nel senso che vanno mandati alle poste, le poste a loro volta rimborseranno direttamente i concessionari che li hanno già anticipati. Ecco, ci ricorda qual è la procedura per e quale tipo appunto di due ruote è coinvolta appunto in questa operazione, quindi quale tipo di acquisto si può fare, sì, quale procedura attivare con il rivenditore, ma con il concessionario. Innanzitutto le due ruote sono solo Euro 3, quindi tutte superiori ai 50 cc, non sono compresi i ciclomotori in questo tipo di incentivi, e fino ad un massimo di 70 kW, quindi non cambia nulla rispetto all'operazione fatta in aprile. Finalmente si riaprono i rubinetti, nel senso che noi da mesi dicevamo che c'erano una parte di fondi che restavano inutilizzati, quindi era un controsenso che risorse messe a disposizione per migliorare la situazione economica dei settori fossero giacenti, quindi adesso finalmente si riaprono e riteniamo di poter dare un'inversione di tendenza. Anche perché la vostra quota l'avete bruciata rapidissimamente. Un paio di settimane, sì. Il problema è che adesso siamo in bassissima stagionalità, però se varrà la regola, come sempre valsa anche per le auto in passato, che si possono fare i contratti di vendita entro fine anno e poi immatricolare entro il 31 marzo del 2011, daremo comunque un impulso alla raccolta ordine. Bene. E quindi a una buona ripartenza nel 2011. Abbiamo dato uno spunto al Ministero dello Sviluppo Economico appunto per rendere la procedura fluida, come dicevamo, e quindi magari fare la prenotazione adesso del mezzo, immatricolarlo più avanti, però insomma poter avere la possibilità di utilizzare l'incentivo. Allora, ritorniamo un po' sulle domande degli ascoltatori. Anna d'Alessandria, buongiorno. Credo di aver risposto a lei forse nella prima parte della trasmissione, però solleviamo di nuovo la questione dell'immobile ad alta efficienza energetica. Sì, in primavera abbiamo acquistato un alloggio con risparmio energetico in classe B. Ho insistito con il costruttore, perché l'abbiamo acquistato direttamente dal costruttore, per fare tutta la pratica all'Enea eccetera, per avere il rimborso. Abbiamo anticipato il costo per tutta la procedura. A distanza di mesi mi domando se è stata una bufala o no, cosa, adesso no. Allora, noi come ha sentito le abbiamo raccontato che il Ministero ci ha rimesso la testa su questa questione, e quindi speriamo appunto che nel giro di, io non so se entro Natale potrà arrivare questo regalo di Natale, Francesca. Beh, loro dicono di sì, speriamo a questo entro punto, la fine dell'anno, sì, ovviamente cominceranno ad arrivare i rimborsi per le pratiche già approvate dalle poste, perché chiaramente tutte le pratiche sono tenute dalle poste che si sono occupate appunto delle domande inviate dai rivenditori, devono verificare che tutto l'incartamento sia a norma, dopodiché arriva il rimborso per quella singola pratica, quindi devono, come dire, man mano che le poste approvano le pratiche cominceranno adesso nelle prossime settimane ad arrivare i rimborsi. Ma secondo te chi ne ha già diritto, chi ha già avviato la pratica in primavera, la posta, a prescindere dal fatto che l'erogazione sia concretamente arrivata, le poste comunque devono aver dato già una delibera di massima di approvazione? Beh, le poste non hanno approvato tutte le pratiche per il momento. Il Ministero dice che sono 755.000 le pratiche già controllate nella loro correttezza formale, per un totale di 128 milioni di euro di contributi. Chiedo ad Anna. Allora, Anna, lei verde, per esempio, questo via libera, questo bollino verde delle poste ce l'ha? No, assolutamente, neanche. E non sappiamo neanche a chi per avere notizie se la pratica è andata a buon fine, se è infatti stata, perché non è una cosa indifferente, se è stato magari un errore, non so, di forma, forma, ovvio, niente, non abbiamo va bene, rivolgerci. grazie Anna, monitoreremo, lo riprometto. Luca De Stefani, qualche indicazione da dare ad Anna, visto che lei è il nostro, anzi che tu Stefano sei il nostro esperto della casa su queste questioni fiscali? No, attendere, non abbiamo altre particolari. Infatti, allora magari ecco, è una pratica all'esame e magari questo bollino verde arriverà entro qualche tempo. Allora, Giovanna da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo chiedere per mia figlia, perché sto ascoltando la trasmissione, lei sta lavorando per mezzo. Mia figlia ha acquistato una settimana fa una cucina, anche piuttosto costosa, e non hanno usufruito naturalmente degli incentivi perché si pensava tutti, no, che fossero già finiti. E potrebbe, non so, retrodatare, cioè, ci sarebbe il modo forse di usufruire di questo incentivo anche se ha già comprato la cucina, magari mettendosi d'accordo con il rivenditore. Poi il un'altra fornitore. Cosa, loro si stanno ristrutturando una casa, non è una casa nuova, e hanno messo, hanno provveduto con le finestre tutto, esatto, il resto, sì, no? Al risparmio energetico, sì, eccetera. Li sto facendo anch'io, Giovanna, guardi, non me lo ricordi che c'è una casa che sembra che c'è scoppiata una bomba dentro, ecco, in questi allora giorni. Ancora non sono andati ad abitare, e in questo caso sarebbe anche possibile, loro chiederanno naturalmente con per la detrazione al 36%, questo avevano intenzione di fare, però può essere che rientri nel risparmio energetico e quindi nel... Allora, le chiedo subito, ecco, ma il lavoro per l'infisso, il lavoro per gli infissi, per esempio, già iniziato, Anna, per Giovanna, perché... Anna, credo, mi hanno cancellato Giovanna. Giovanna, mi scusi. Sì. Cioè, in realtà bisogna far vedere prima l'abitazione ad un certificatore che deve fare appunto la misurazione del consumo energetico della casa e poi fare i lavori, quindi non è che si può fare dopo. Ho capito. C'è tutta una procedura da seguire. Beh, loro li hanno appena cominciati, quindi in quel caso potrebbero forse devono però documentarsi d'accordo. Non hanno chiesto niente per esempio alla persona che fornisce l'infisso nuovo? Perché i professionisti penso devono che abbiano pagato con bonifico per fare, però in realtà c'è una misurazione poi della detrazione del 36%. C'è la necessità che ci sia l'asseverazione della pratica da parte di un certificatore che prima ti deve dire quanto consuma dal punto di vista energetico. Io la so così bene la situazione perché la sto facendo, non perché sia chissà che scienziato, Giovanna. Quindi prima deve sapere la sua figlia che tipo di consumo ha la sua abitazione e poi che tipo di risparmio porta l'infisso nuovo, molto banalmente, per cui c'era forse un passo precedente da fare, magari sua figlia l'ha fatto e forse non gliel'ha detto. Luca De Stefani, Luca, mi aiuti su questo? Sì, certo. Allora, per quanto riguarda la detrazione del 36% generale per la ristrutturazione, lì sicuramente c'è l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di comunicare al centro operativo di Pescara. Esatto, di Pescara, la comunicazione di inizio lavori. E questo è obbligatorio per il 36%, quindi per gli altri lavori al di fuori delle finestre con risparmio energetico. Per le finestre con il risparmio energetico, diciamo che la certificazione energetica non sarebbe obbligatoria dal 1 gennaio del 2008 e quindi volendo si potrebbe fare solo per questo, non ad esempio per il cambio della caldaia, dove invece giustamente ci vuole un risparmio certificato tramite certificazione energetica. Però diciamo appunto per gli infissi e per le finestre è possibile installarle, farle installare, fare il pagamento con bonifico bancario e solo a consuntivo, entro 90 giorni della fine dei lavori, inviare all'Enea il modulo e i dati dell'investimento fatto. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Però non abbiamo detto a Giovanna, Luca, la cucina che ha comprato qualche giorno fa, se rientra nella partita degli incentivi nuova, ma io credo che purtroppo, avendo già fatto l'acquisto e non avendo chiesto al rivenditore di farsi da intermediario appunto per l'erogazione dell'incentivo, che peraltro già c'era, non era terminato per le cucine componibili, Francesca? No, era ancora disponibile al 18 ottobre, sono disponibili il 10% dei fondi per le cucine, quindi ancora qualche soldino però, c'è, però la richiesta andava fatta al momento dell'acquisto, perché infatti, il rivenditore in quel momento avvia la pratica, la disponibilità della risorsa ancora disponibile. Online verifica la disponibilità, avvia la pratica con le poste e quindi mette in lista poi l'acquirente. Luca, quindi Giovanna non può far più niente, temo. No, non può fare più niente, lì avrebbe avuto un incentivo pari al 10% del costo sostenuto. Le suggerisco di andare da rivenditore ad arrabbiarsi perché non le ha detto di questa opportunità di farsi riconoscere uno sconto, magari farsi regalare una poltrona oppure, non lo so, un pezzo di credenza in più. Per un elettrodomestico. Un elettrodomestico magari. Allora, Giovanna, ci dispiace. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Andiamo con i suggerimenti per chi è in viaggio oppure per le altre? Sì, andiamo con le strade, le autostrade italiane. Allora, gli incentivi fiscali per rilanciare i consumi. Abbiamo adesso di nuovo le due ruote con la domanda di Daniela da Brescia. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Daniela, abbassi un pochino la sua radio perché sento già... Sì, l'ho sentita ora. Perfetto, grazie. Allora, io telefono appunto ricollegandomi agli incentivi dei motocicli. Sono sette macchine ora e mi pare di aver capito che c'è presente il presidente dell'ANCMA. Sì, direttore della sezione moto. Esatto. Tutto. La mia domanda era questa: non capisco perché in questa prossima rottamazione o incentivo non si possa fare come si fa con gli incentivi regionali, rimborsare direttamente il cliente anziché lasciare il concessionario esposto con 20, 30 clienti. Perché sa che noi qua, se non ci complichiamo un po' la vita, Daniela, non siamo mai contenti, no? Perché c'è questo ruolo dell'intermediatore della vendita, De Viti? Questa è una decisione che ha preso il Ministero. Noi saremmo ben felici di utilizzare sempre come l'incentivo regionale in Lombardia un ente che in questo caso è la Cinnova di Milano, che effettua i controlli e rimborsa direttamente sul conto corrente dell'acquirente. Diciamo che c'è anche una motivazione politica, se vogliamo, da parte di Regione Lombardia, che in questo modo ottiene, come dire, il fatto che ci sia una riconoscenza da parte dei suoi elettori. Ah, però, come l'abbiamo pensata lunga, mamma mia. Dietrologia. Sì, guarda, noi proprio Alice nel Paese delle Meraviglie, figuriamoci se andiamo a pensare anche a queste cose. Quindi, Daniela, queste sono le regole, le stabilisce il Ministero, per cui possiamo fare poco. Un ascoltatore chiede l'email del Comitato Incentivi, del quale abbiamo parlato inizio trasmissione. Spero di poterlo dare, di essere autorizzata a darlo, ma insomma, più sono e più probabilmente la loro voce si può far sentire meglio. incentivi2010@gmail.com. Noi abbiamo sentito la signora Marta prima, Bonazza tra l'altro come cognome, quindi magari se vuol fare anche una mail proprio rivolgendosi direttamente a lei, mettendo come riferimento che aveva sentito il suo indirizzo nella trasmissione, quindi ci siamo fatti portavoce anche di tutto questo. Quante mail. Un ascoltatore dice: Deborah, questa puntata non mi piace perché è troppo settoriale. Non ho capito. I frigoriferi hanno incentivi, Francesca? No, hanno un altro tipo di incentivo, una detrazione fiscale che quindi non rientra in questa partita, però ecco, c'è una possibilità di avere qualche sconto, in quel caso sull'IRPEF, anche per i frigoriferi. E invece non rientrano in nessun tipo di incentivo le lavatrici. Oh, guarda, c'era la domanda di Lino da Lecce. Lino, buongiorno. Lino, buongiorno. Mi avete bruciato fatto rispondermi così senza farmi fare la domanda. Ma i nostri parlamentari le robe mica le lavano. Loro vanno in lavanderia. Tra l'altro, insomma, l'industria del bianco ha avuto però in passato qualche altro incentivo. Sì, non ne rientrano in questi nuovi. Esatto, ci sono stati incentivi passati, sono appunto finiti. Adesso gli elettrodomestici incentivati sono le cucine a gas, i forni elettrici, le lavastoviglie, i piani cottura, le cappe, eccetera. Non eccetera. È esclusivamente l'industria del bianco, è il mobile che qua riceve un aiuto. Questi elettrodomestici incentivati sono tutti legati alla cucina, ecco, è importante specificarlo. Allora, c'è Manuela che ci scrive: ho acquistato un forno via internet, ho usufruito dell'incentivo bene. Il forno mi è arrivato danneggiato, per non perdere l'incentivo ho dovuto farlo riparare perché nessuno mi ha saputo dire se potevo rifare la richiesta e se il venditore si sarebbe comunque incamerato l'incentivo. È stato giusto, Manuela, mamma mia, questa è una sofisticazione delle vostre richieste. Luca De Stefani, presumo che abbia fatto bene. La sto mettendo alla prova stamattina in ogni modo, però vabbè, l'importante è... Gli acquisti online sono sempre un po' rischiosi da questo punto di vista, ecco, si risparmia su un fronte, però... Certo. Allora, qui c'è un'altra domanda di Roby da Vercelli, che in realtà ritorna sul tema del risparmio energetico e l'incentivo del 55%. Io voglio ricordare, non rientra nell'argomento di cui stiamo parlando questa mattina, però se l'ascoltatore ce lo chiede magari accontentiamolo. Dite che non è automatica l'accettazione della pratica del 55% del risparmio energetico. È vero, deve avere De Stefani il vaglio, il via libera da parte dell'Enea? No, assolutamente no, se ci sono dei problemi l'Enea blocca la pratica. Esatto, però no, l'ascoltatore in realtà dice: pur se formalmente corretta dipende sempre dalla disponibilità dei fondi. Non è vero, dipende dalla disponibilità dei fondi, in realtà questa partita probabilmente si chiude a dicembre, ma non esiste un tetto massimo di ammontare, De Stefani. È stata la finanziaria del 2008 che in una prima fase prevedeva appunto dei fondi e quindi una disponibilità di fondi limitata per questa agevolazione. Poi però in sede di conversione proprio del decreto legge è stato eliminato tutto quanto questo blocco, diciamo, e quindi è tornata la normativa come era in precedenza. Allora, io volevo solo avvisare Marco che magari di non prendere domande stamattina su 36-55%, perché la questione è diversa. Francesco da Roma voleva rifare un punto su questo. Francesco, sono cumulabili perché sono lavori diversi? De Stefani, magari adesso senza farlo intervenire l'ascoltatore ci chiede se 36% per le ristrutturazioni e il 55% per la riqualificazione energetica della casa sono benefici cumulabili. Allora, sullo stesso investimento no. Ad esempio sulle finestre, l'esempio di prima della nostra ascoltatrice di prima, le finestre o il 36% o il 55%. Ecco. se sto facendo dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione o di un altro immobile, ecco che posso avere per le finestre il 36, mentre magari per i lavori di manutenzione straordinaria per il tetto o per l'intonaco, ad esempio, posso avere il 36%. Allora, tra l'altro, stiamo parlando, Francesca, dei nuovi incentivi per chi volesse oggi andarsi a documentare per la nuova cucina componibile della casa. I nuovi non partono da subito? No, non partono da subito, partono dal 3 novembre, quindi fino al 3 novembre rimangono gli stanziamenti attualmente disponibili, per cui ci sono ancora sulle cucine c'è il 10% dello stanziamento, quindi il 10% di 60.000 euro. I quattro settori esauriti rimangono esauriti quindi fino al 3 novembre, quindi chi vuole chiedere un incentivo per il motociclo, per la nautica, per la banda larga, per i giovani e la banda larga o per le macchine agricole, deve aspettare il 3 novembre. Ecco, qui, siccome avevamo in sospeso una domanda di un ascoltatore di Pavia che chiedeva proprio informazioni sugli incentivi per le macchine agricole, allora si sbrighi, sia pronto il 3 novembre. Ecco, soprattutto quando andate dal rivenditore, chiedete, perché sicuramente lui, vista la farraginosità delle procedure per poi rientrare di questo denaro, magari non lo dice al consumatore. Esatto, Francesca, abbiamo già avuto questa esperienza. Sì, alcuni negozianti, alcuni rivenditori un po' glissano sull'argomento. Invece, insomma, è un diritto. Se il negoziante ha aderito all'iniziativa del ministero, cosa che hanno fatto quasi tutti, deve assolutamente concedere questo sconto al cliente. Giovanni ci ha mandato una mail all'indirizzo di salvadanaio@radio24.it. Ho appena comprato, ci dice, me la consegnano oggi, la lavatrice nuova in classe AA. Sono in tempo per ottenere gli incentivi? Se sì, come posso ricattare il venditore? In nessun modo, perché la lavatrice non entra. Esclusa. Esatto. Allora, Antonio da Pavia, buongiorno. Lei era il signore delle macchine agricole, giusto? Buongiorno. Ci dica. Ascolti, sì, sulle macchine agricole gli incentivi sono per qualsiasi macchina agricola, anche quelle che possono i soldi. Oh santo cielo, allora qua dobbiamo fare i modelli, Francesca. Allora, il ministero dice macchine agricole e movimento terra, per cui diciamo presumiamo che siano tutte ammesse, tutte incentivate. Si ricordi di fare richiesta dopo il 3 novembre e buona fortuna. Esatto, il 3 novembre sia lì alle 8 del mattino dalla persona alla quale si rifornisce, Antonio, dal suo rivenditore, dal suo concessionario anche di queste macchine, immagino che si chiami nello stesso modo come quello delle auto. E quindi, ma magari si vada anche ad informare prima, glielo vado a dire che c'è la riapertura della partita degli incentivi, perché poi magari lì, insomma, non vorrei che ci si dimenticasse e quindi non vi facciano usufruire di questa opportunità. Le gru a torre per l'edilizia, Francesca, come sono andate? Le gru a torre per l'edilizia sono andate malino, nel senso che fino ad oggi sono stati utilizzati il 16% dei fondi disponibili, e quindi non c'è stata grande richiesta. Sono 447 i contributi concessi, però ecco, insomma, ricordiamo che c'è questa possibilità, quindi chi ne avesse bisogno, per ovviamente per lavoro, immagino, può andare a chiedere un incentivo. Allora, per concludere, faccio fare a Claudio De Viti l'ABC per la richiesta degli incentivi per le due ruote, perché erano quelli che erano andati a ruba, che hanno avuto il maggior successo in primavera, per cui immaginiamo già che se questa opportunità visto che si è riaperta di nuovo, molti consumatori, molti appassionati delle due ruote ritorneranno appunto a farne richiesta. Allora, ci ricordi un po' come si fa, cosa dobbiamo chiedere al rivenditore De Viti, insomma, la pratica, come si deve gestire? Il cliente si rivolge al rivenditore, poi pensa tutto lui dopo a richiedere il rimborso e quant'altro. Ha diritto al 10% di sconto sul prezzo di vendita pattuito del veicolo. E ricordiamo quali mezzi beneficeranno dell'incentivo. Mezzi Euro 3, quindi superiore a 50 cc e con un massimo di 70 kW. C'è una contestuale rottamazione di un mezzo vecchio? Esatto. Benissimo, quindi ricordiamoci di tutto questo. Non lo so, Francesca, abbiamo detto tutto, perché la trasmissione sta terminando. Sì, abbiamo detto tutto. Una cosa importante, un altro fondo che era terminato e che adesso si ricalibra è quello sulla banda larga, dedicata ai giovani. È uno sconto per gli abbonamenti telefonici, insomma, DSL. È un contributo importante, secondo me, per i giovani che magari, insomma, attivano un telefono, ma insomma sappiamo che la precarietà è quella che è, per cui è un aiuto per loro. Ti senti un po' coinvolto? coinvolta. Sì, in mi questo... sento un po' coinvolta. Allora, io vi ringrazio per essere intervenuti, Francesca Milano, Luca De Stefani e Claudio De Viti. Intanto abbiamo parlato di tutti gli incentivi che si rimettono in moto. Adesso segmenteremo per settore, stresseremo il Ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare le risorse di cui devono rientrare i commercianti che hanno cavalcato anche questa opportunità e hanno dato modo anche ai consumatori di appunto beneficiarne. Cercheremo di capire soprattutto per la casa ed efficienza energetica come si sbloccherà la partita, perché questo è un tema che ci interessa molto. Grazie a tutti, Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti. Salvadanaio.